Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo, lo faremo anche nella seconda ora del programma, delle nuove tensioni che, senza creare alcun allarmismo, ma si stanno registrando e si chiamano non solo Grecia e Dubai, oggi nuovo brutta la giornata in borsa ad Atene, ma addirittura anche Spagna, senza creare nessun allarmismo, però Standard & Poor's, l'agenzia di rating, una delle tre agenzie che danno i voti ai debiti dei paesi al mondo, ha confermato il voto alla Spagna, molto buono, AAA, ma ha previsto, quindi la prospettiva, come si chiama in gergo, l'outlook, di portarlo a negativo alla luce di un pronunciato deterioramento delle finanze pubbliche. E quindi anche la Spagna entra nel mirino, tra l'altro i credit default swaps, che sono questi strumenti purtroppo noti, diventati famosi quando è scoppiata la crisi finanziaria, ma sono in realtà strumenti che assicurano contro il rischio che uno non possa ripagare, sono delle assicurazioni contro il rischio di insolvenza. Ebbene, questi strumenti, per quello che riguarda il debito spagnolo, sono saliti ai massimi dal mese di giugno, e parleremo di questo anche perché sono ancora fresche le parole che il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, in quanto anche presidente del Financial Stability Board, ha pronunciato ieri in Gran Bretagna in un convegno organizzato dal Wall Street Journal, e insomma ha messo in guardia i vari paesi occidentali per l'alto debito pubblico, sia debito pubblico sia debito privato. Ha detto il governatore Draghi: nei prossimi 5 anni andranno a scadenza, cioè dovranno essere ripagate, obbligazioni emesse non solo i titoli di Stato, ma anche obbligazioni emesse da soggetti privati, di cui quelle a bassa qualità, quindi quelle più rischiose, valgono, pensate, 4.000 miliardi di dollari, e queste nei prossimi 5 anni dovranno essere ripagate. L'obbligazione è, come ben sapete, la richiesta di un prestito che obbliga a restituirlo con un interesse. E ancora, ha detto Draghi, resta forte, anzi e si sta peggiorando, il problema delle banche grandi, quelle che in inglese si chiamano too big to fail, troppo grandi per fallire, e quindi che vanno comunque aiutate. Ha detto: il problema delle banche troppo grandi per fallire sta peggiorando. Ancora, tra l'altro, il cancelliere dello scacchiere britannico, Alistair Darling, quindi il ministro dell'economia britannico, ha precisato che in Inghilterra verrà introdotta una tassa una tantum del 50%, però, su tutti i bonus dei manager del settore bancario che superino le 25.000 sterline, per cui indicativamente intorno ai 28.000 euro. Tutti i bonus superiori a questo verranno tassati al 50%, e non è cosa da poco, anche perché l'economia britannica chiuderà l'anno quasi con un calo del 5%. E di questo ci occuperemo nella seconda ora del programma, quindi rischi, minacce, ripeto, senza creare allarmismi. Atene e Dubai sono degli scricchioli, però la situazione, da quello che vediamo, va monitorata con attenzione. Partiremo in apertura con una notizia non più leggera, perché parliamo di un settore che vale 5 miliardi e 300 milioni di euro, ossia la pizza italiana. È arrivato il riconoscimento della pizza, del disciplinare sulla pizza italiana, per cui non si potrà più vendere pizza margherita fatta in Bielorussia, Polonia o altre località amene. E tra l'altro questo nel giorno in cui si sta registrando un fenomeno molto interessante, anche qui prettamente economico: il sorpasso in Italia, e non solo, dei prosecchi, delle bolle italiane, come si chiamano in gergo, rispetto allo champagne, che è crollato del 40% quanto a produzione. Anche questo è un settore che in Italia vale circa 1 miliardo di euro alla produzione. Quindi partiremo con delle buone notizie, visto che poi i temi invece sono di tutt'altro tenore. La legge finanziaria, anche qui un aggiornamento, avete sentito dal nostro GR la discussione in aula. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve, partendo dalla borsa. Allora, borse nervose, nervosette oggi tutte le borse europee. Perché? Perché oscillano tra un meno 0,2 e meno 1% dopo appunto la brutta apertura anche questa mattina ad Atene. Hanno sofferto questa mattina soprattutto le borse asiatiche, meno 1,5% sia Hong Kong che Tokyo. Adesso le borse europee perdono tutte mezzo punto percentuale, senza, cioè, Londra è l'unica che perde un po' di meno, meno 0,2, e l'America invece è positiva di uno 0,3%, debole rispetto alle settimane scorse l'euro sul dollaro a 1,4732. In realtà poi se si guarda dentro il listino sono pochi i titoli che tengono: Tenaris più 1,6, UbiBanca più 0,80 come Snam Rete Gas, Eterna, lo 0,3% il rialzo di Unipol e lo 0,1 quello di Geox. Tutto qui per quello che riguarda i titoli positivi. Negativa invece Bulgari meno 3,30, in pregino meno 2,70 come Saipem, il 2,3 lo perde Mediolanum, il 2% Mondadori, Fondiaria, l'1,90% del calo di Estima Microelectronics, l'1,7 quello di Prismian e Parmalat, 1,5% di calo per la Popolare di Milano e per Pirelli. Arriveremo anche nel commentare la borsa. Vi dico già che comunque i migliori titoli di nuovo sono quelli del settore acqua, dopo il decreto Ronchi sulla privatizzazione parziale degli acquedotti. Acque potabili più 5%, Mediterranea Acque più 4,5%. I peggiori invece, beh, Juventus, e qui pesa il risultato di ieri, senza nessun commento, meno 7,2%, e poi Finarte, casa d'aste, meno 8,3%, e veramente poco altro, Fortis, meno 7%. Si tinge di giallo la vicenda dei siti nucleari. Allora, oggi il ministro Scajola, ministro dello sviluppo economico, ha smentito quanto dichiarato ieri dal presidente nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, che aveva individuato alcune località che l'Enel avrebbe sostanzialmente, dove l'Enel vorrebbe sviluppare le centrali nucleari, un dossier che l'Enel avrebbe mandato al ministero. E sarebbero Montaldo di Castro, Viterbo, Borgo Sabotino, Latina, Garigliano a Caserta, Trino Vercellese, Vercelli, Caorso, Piacenza e poi anche Oristano, Palma in provincia di Agrigento, Monfalcone in provincia di Gorizia. Ha smentito ieri anche l'Enel e oggi il ministro. Vedremo poi, tutti quanti hanno detto, sia il ministro che l'Enel, che la decisione verrà presa, i siti verranno individuati a primavera. Volete sapere al 349-238 del 6666 del petrolio? Beh, è sceso a $72 dopo le scorte americane. Chissà se la benzina dopo il ponte di Sant'Ambrogio tornerà a livelli più accettabili. Assolutamente priva di malizia la mia osservazione. Andiamo avanti con la Grecia, perché oggi il premier Giorgio Papandreou ha detto che il paese si trova, la Grecia si trova nel reparto di cure intensive e la crisi finanziaria minaccia addirittura la sovranità greca dal 1974, quando il paese tornò alla democrazia dopo la dittatura dei colonnelli. La borsa di Atene anche oggi ha preso una sberla. Il ministro delle finanze però greco, George Papakonstantinou, ha dichiarato che non esiste alcun rischio di default, di fallimento sul debito pubblico greco, e la Grecia non chiederà alcun pacchetto di aiuti all'Unione Europea. Allora, la legge finanziaria italiana, anche qui, anche su questo avremo un approfondimento più avanti, però è arrivata in pomeriggio alla Camera, quasi inesistenti le possibilità di ritocchi, è sempre più probabile, anche se avete sentito l'appello del leader dell'UDC Casini, ma è sempre più probabile il voto di fiducia sulla legge finanziaria. L'opposizione protesta, poco fa il ministro dell'economia Giulio Tremonti, intervenendo alla Camera, ha detto che in commissione bilancio durante l'esame della finanziaria non c'è stato alcun ostruzionismo, ma una discussione anche intensa e prolungata. Va riconosciuto, è stato riconosciuto e credo anche personalmente riconosciuto il fatto che in commissione non c'è stato ostruzionismo, ma discussione anche intensa, anche prolungata, negli interventi dell'onorevole Baldelli e poi del presidente Giorgetti è stato riconosciuto. Se c'è stata non ostruzionismo ma discussione in commissione bilancio, è vero ed è positivo. E questo credo che esaurisca il discorso sul metodo, quanto è stato fatto in commissione bilancio, quanto ora deve o può essere fatto in aula. E credo che ora siamo qui non per discutere sul metodo, ma per avviare la discussione d'aula. Grazie. Così il ministro Tremonti, e tra l'altro è arrivata una smentita dal ministro del welfare Maurizio Sacconi, che non esiste sull'uso del TFR, non esistono novità, non esiste alcun problema per i lavoratori. Questo sul tema del trasferimento dall'INPS al tesoro di parte dei fondi TFR per coprire la finanziaria 2010, cioè per trovare i soldi per la finanziaria 2010. E mentre su questa notizia ha replicato il leader del PD Bersani, detto da Tremonti, c'è stato un autoassalto alla dirigenza. Dal governo sono arrivate le iniziative più svariate, come coriandoli, senza che ce ne sia una davvero incisiva. E poi il segretario nazionale della CISL, Raffaele Bonanni, ha chiesto che governo e INPS chiariscano che utilizzo viene fatto del TFR. Ne riparleremo, vista i temi della puntata, fateci aprire, come dicevamo, con una buona notizia, che può sembrare non economica, in realtà il giro d'affari è importantissimo anche in questo settore. Ci occupiamo di agroalimentare e vitivinicolo, a ridosso del Natale. Allora, la notizia positiva, e mi raccomando massima serietà, è che la pizza napoletana, prodotta secondo la tradizione napoletana e partenopea, ha ottenuto a livello europeo il riconoscimento di specialità tradizionale e garantite, quindi è protetta a questo punto la margherita da imitazioni e falsi. Allora parliamo di pizza. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capumarola angoppa, capumarola angoppa. Ma tu voliva pizza. Eh sì, è un tema anche economico, perché forse non tutti sanno che, come si diceva una volta, il fatturato solo in Italia delle pizzerie, della pizza, vale 5 miliardi di euro, 25.000 le pizzerie in questo paese, 120.000 gli addetti nel settore. Tra l'altro il termine pizza, questo come nota di colore, è la parola italiana più conosciuta all'estero, precede cappuccino, spaghetti e espresso. Vabbè. Questo come colore. Come dato economico invece è importantissimo, perché sappiamo che poi tutelare un marchio come quello della pizza significa anche tutelare i prodotti che la pizza compongono, che sono prodotti italiani. La musica più napoletana di così non poteva essere. Ministro Luca Zaia, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera anche al direttore editoriale del Gambero Rosso, Carlo Ottaviano. Buonasera Carlo. Buonasera ministro, buonasera a voi. Allora, ministro Zaia, la pizza, diciamo, è tornata a unire il paese, visto che insomma, lei è leghista da sempre, trevisano, però ha già annunciato che il 4 gennaio farà festa a Napoli? La dimostrazione che i leghisti sono di parola e sono persone che poi raggiungono sempre l'obiettivo. Sì, la festa a Napoli da un lato, ma dall'altro questo grande risultato di oggi che ci porta a dire che pizza è diventata STG, come giustamente diceva bene lei, specialità tradizionale garantita, il che significa che in tutta Europa chi vuol vendere la pizza napoletana la deve fare secondo i criteri previsti dal disciplinare. Il disciplinare, come già avviene nel vino e in altri prodotti. Questo poi, parlando seriamente di ricadute economiche, vuol dire che chi vorrà fregiarsi del termine pizza napoletana all'estero non potrà più avere pizze importate da posti strani. Pensate che ci sono pizze che arrivano dalla Bielorussia, fatte in Polonia e Romania. Il ministro me lo conferma questo, perché sono stati casi incredibili. Ma dovrà utilizzare prodotti italiani quali? Beh, innanzitutto glielo confermo, perché la più grande battaglia l'abbiamo fatta con i tedeschi e i polacchi. I prodotti italiani saranno la mozzarella di bufala DOP, il pomodoro San Marzano, il grano tenero, piuttosto che ovviamente l'olio extravergine d'oliva, per il quale abbiamo addirittura l'etichettatura obbligatoria dal 1° di luglio. Allora, Carlo Ottaviano, voi come Gambero Rosso vi occupate chiaramente di enogastronomia di altissima qualità, però quanto importante è riuscire a difendere un prodotto che apparentemente sembra così normale, così anche prosaico come la pizza, quando poi invece vediamo l'indotto che ha, ripeto, più di 5 miliardi di giro d'affari solo in Italia? Ecco, allora è importantissimo difendere la pizza e secondo me è importante difendere i prodotti. Poi, come sempre, nei regolamenti c'è, come dire, viene fuori qualche perplessità. Per esempio il regolamento di cui parlava adesso il ministro, e ripeto meritoria l'opera di difesa della pizza, della pizza margherita, dice che la pizza deve essere rotonda e che deve essere consumata nello stesso luogo dove viene prodotta. E allora con le pizzerie a taglio, che in Italia sono tantissime, come ci mettiamo? È una domanda che pongo al ministro, ripeto, nello spirito positivo, perché secondo me è meritorio difendere i nostri marchi anche in cucina e non solo nel territorio, quindi non solo il pomodoro, non solo la mozzarella di bufala, non solo la farina, ma anche l'insieme di queste cose che è la ricetta della pizza. Ministro, sembra un tema da poco, ma è un tema economico anche questo, ci mancherebbe. Assolutamente sì, diciamo che la nostra filosofia è la filosofia che vuole difendere fino in fondo, mi permetta di ricordarlo questo, i prodotti tipici, e quindi da qui noi siamo diventati oggi portabandiera dell'etichettatura e della tracciabilità in Europa, e direi che questo percorso della pizza ci aiuta a fare tutto questo. E quindi è già un primo passo. C'è un altro aspetto che mi interessa molto, perché questa notizia, attesa, ma insomma è bello avere le conferme, arriva in un momento in cui, chiaramente sotto le vacanze, le festività, le spese alimentari conoscono il picco dell'anno, non solo in Italia, in tutta Europa, e se ho ben capito sta avvenendo, complice anche la crisi, ma in questo caso un fenomeno virtuoso nel nostro paese. Carlo Ottaviano, voi avete dedicato un numero del Gambero Rosso a questo, cioè stanno esplodendo in senso positivo le vendite di prosecco, spumante, Franciacorta, e mettendo in crisi quelle di champagne, ho capito bene? Noi abbiamo titolato proprio il numero in edicola Prosecco batte tutti, perché intanto le bollicine italiane stanno battendo alla grandissima anche i francesi, gli spagnoli e gli altri produttori di bollicine, ed è già un dato strepitoso. Pensate, ho letto soltanto i dati sull'Asti spumante, sono i dati più recenti, quest'anno l'Asti venderà circa 90 milioni di bottiglie, cioè che è un dato assolutamente strepitoso, quindi gli spumanti italiani vanno benissimo non solo per i prezzi ma anche per la qualità, perché Franciacorta o Trento DOC non hanno nulla da invidiare allo champagne, ma nella grande competizione il prosecco a sua volta batte tutti, e questo è un dato assolutamente strepitoso. Per la prima volta noi quest'anno nella guida dei tre bicchieri abbiamo addirittura tre prosecchi, segno che il prosecco non è più quello che una volta si chiamava il prosecchino, cioè un vino così facile da bere, tranquillo eccetera, invece il prosecco veramente sta diventando un grande vino, e i produttori del Veneto sono veramente veramente bravi. Quest'anno come dire, i dati, le previsioni di Assoalimentare e degli altri parlano di un crollo verticale dello champagne, ma quello che è positivo non solo per i prezzi alti ma proprio per un discorso di qualità. Allora, ministro Zaia, vediamo se qui invece l'anima trevisana viene fuori, visto che appunto ha appena esultato per la vittoria della pizza napoletana, la festeggiata il 4 gennaio. Prosecco significa, parlo solo di dati del giro d'affari di questo tipologia di vino, 370 milioni di euro, 57 milioni di bottiglie prodotte, a cui poi si sommano tutte quelle della Franciacorta e le altre bollicine storiche italiane, il Trentino con Ferrari ma non solo, e poi l'Asti. Allora, c'è un ritorno positivo in questo caso della crisi. Il prosecco ha un ottimo rapporto prezzo-qualità, soprattutto rispetto ai francesi. Possiamo anche spendere un po' di nazionalismo? Beh sì, ma non lo dobbiamo dire noi, lo dicono i francesi, che quest'anno addirittura hanno dovuto contrarre del 44% le loro produzioni degli anni futuri. C'è un calo drastico a due cifre del consumo dello champagne, c'è una crescita a due cifre del consumo di spumante italiano nel mondo. Questo ci permette oggi di lanciare, e ne approfitto dottor Barisoni della sua ospitalità, la mia nuova iniziativa, che è quella di dare una magnum a tutte le trasmissioni televisive per i festeggiamenti del Capodanno. Una magnum intesa come bottiglia, perché sai. Una magnum intesa come bottiglia di spumante italiano, in modo tale che non si veda più in nessun palco, in nessun set televisivo, la presenza di champagne o di altre porcherie che nulla hanno a che vedere con la nostra produzione di qualità. Quindi questo immagino per la diretta televisiva del 31 dicembre, no? Assolutamente sì, Rai e Mediaset hanno già dato il loro assenso, e quindi saranno i nostri testimoni ad eccezione. Poi ovviamente io ringrazio anche tutte le altre televisioni private e anche a copertura nazionale che hanno aderito a questa iniziativa. Allora, vedo alcuni messaggi un po' ironici al 349-238-6666. Attenzione, perché le cifre economiche ve le ho dette e sono settori che meritano rispetto come tutti gli altri settori. E poi una piccola nota la do io. sarebbe inimmaginabile in Francia vedere una trasmissione televisiva in cui si brinda con una bottiglia di prosecco italiano, di altre bolle europee. Non capisco perché noi non si possa fare lo stesso, cioè se lo fanno i francesi va bene, se lo facciamo noi diventiamo provinciali. Io non la penso così. Un'ultima domanda, ministro Zaia: le prossime battaglie, perché è un tema che noi seguiamo da anni, quella della tutela dei marchi italiani. Abbiamo ricordato che praticamente 2 prodotti su 3 al mondo venduti con la bandiera italiana, con il nome italiano, non sono italiani, sono prodotti in loco. Quali saranno le prossime sfide su questo fronte? Le prossime sfide saranno sicuramente quello di portare avanti innanzitutto il nostro disegno di legge, che sta diventando legge in Parlamento, per l'etichettatura obbligatoria, di difendere questa etichettatura anche nel comparto del lattiero caseario in Europa, perché questi sono negoziati europei, e di discutere tutto a livello di Consiglio dei Ministri. Prova ne sia che io ho questo Consiglio dei Ministri in Europa per il futuro della PAC, all'interno del quale parleremo anche di tutela del Made in Italy. Carlo Ottaviano, in qualche modo si sta replicando nel settore agroalimentare quello che è già successo un tempo fa nel settore vinicolo, cioè disciplinari molto rigidi, delle volte anche troppo, però solo in questo modo si tutela la qualità. Secondo te non si rischia delle volte anche di eccedere nel disciplinare, nella normativa, oppure è l'unica strada, vista la concorrenza spesso anche scorretta che arriva da altri paesi? Intanto i disciplinari è bene rispettarli a tutela dei consumatori, cioè ricordiamoci, ed è una battaglia che il ministro sta facendo, che è il discorso sull'etichettatura, nel seguire la tracciabilità eccetera, va a tutela fondamentalmente dei consumatori. Quindi ricordiamoci dei produttori, tuteliamo i produttori ma anche i consumatori. E allora io sono per i disciplinari rigidi, perché sicuramente è una cosa seria e fa bene. Io ricordo sempre che prima di essere un produttore siamo dei consumatori, quindi fa bene a tutti. Aderisco anche all'invito del ministro, quindi Gambero Rosso Channel il 31 dicembre festeggerà con bollicine italiane. Oh, vabbè, quindi chiudiamo in bellezza, per ora non siamo ancora al 31 dicembre. Grazie a Luca Zaia, ministro delle politiche agricole e alimentari. Grazie a voi. E grazie al direttore editoriale del Gambero Rosso, Carlo Ottaviano. Grazie. Ma tu voliva pizza, pizza, pizza, capumaro langoppa, capumaro langoppa. Ma tu voliva pizza, pizza, pizza. Beh sì, insomma, un ministro leghista così legato al territorio trevisano e Veneto che si fa paladino della pizza napoletana e andrà a festeggiarlo il 4 gennaio, a noi come notizie piaceva. Dopodiché, sempre per restare sui numeri, vedo che ci sono alcune vestali dell'ortodossia del programma che dicono: ma insomma, ma che tema è? Adesso arriveremo, la borsa, il rischio dei debiti sovrani, le obbligazioni ancora in giro, tutti temi leggeri, però attenzione, perché il valore della contraffazione dei prodotti alimentari in giro per il mondo, stando bassi con le stime, è di almeno 52 miliardi di euro. Per cui, il che non è detto che tutto potrebbe essere fatto in Italia, ma insomma, il consumo di prodotti falsi italiani è pari a 52 miliardi di euro. Immaginate cosa sarebbe se si riuscisse a tutelarne almeno la metà. Vorrebbe dire un paio di manovre finanziarie in più, soprattutto per la nostra agricoltura e per i nostri produttori, con i tempi che corrono. Dopodiché io resto dell'idea che sia bene bere italiano anche il 31 dicembre, se uno deve farlo. ...17:37 di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per parlare adesso di borse. Una risposta la devo dare però ad alcuni ascoltatori sul tema della pizza. Allora, è vero, il ministro non ha risposto al dubbio che sorge con questa tutela sulle pizzerie al taglio. Dopodiché, cerchiamo di capirci, la tutela è importante dal punto di vista politico, oltre che diciamo economico, come abbiamo già chiarito, ma riguarda solo la pizza tradizionale napoletana DOC, quella che ha ottenuto la tutela, fatta in quel modo, la margherita fatta a mozzarella di bufala, non riguarda tutte le pizze italiane. E poi vedremo se si riuscirà a trovare una soluzione su questo fatto, questa norma nel disciplinare che la prevede solo rotonda. Alcuni scrivono, moltissimi, devo dire, proprietari di pizzerie al taglio. Bene, vuol dire che il tema comunque c'era. Detto ciò, la borsa, poi la legge finanziaria e poi i timori sulla tenuta di Francia, di Spagna, Grecia e Dubai. 349-238-6666 per gli sms, la borsa. Right, Meno 0,7% Milano, meno 0,7% anche Francoforte e Parigi, meno 0,3% Londra, l'America è incerta, giornata molto molto incerta oggi, non con valori pesanti, però tra meno 0,2% e meno 0,9%, questo diciamo il binario su cui si sono mossi i listini lungo la giornata. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, qui pesa più che Dubai anche la Grecia e poi questo outlook, queste previsioni negative di Standard & Poor's sul debito spagnolo. Sì, certamente, certamente alla situazione greca che sta prendendo forma, nonostante insomma così i tentativi anche di frenare eccessi di allarmismo da parte delle varie autorità, ha stupito oggi l'indicazione arrivata dall'agenzia di rating americana Standard & Poor's, che ha posto appunto in negativo l'outlook sul debito spagnolo. Questo si è riflesso in particolare sull'andamento del listino di Madrid, che ha perso il 2,3% circa, ma poi ha impattato nel pomeriggio anche sugli altri listini europei, che per la verità non hanno accusato cali così pesanti, ma che certamente hanno risentito l'apertura di un nuovo fronte di incertezza. Sì, poi vedremo, ne parleremo nella seconda ora. Qui tornano a esserci, ieri Mario Draghi ha detto attenzione, ci sono 4.000 miliardi di obbligazioni di cattiva qualità in scadenza nei prossimi 5 anni, più un'altra montagna in scadenza comunque nei prossimi 5 anni, ma insomma 4.000 miliardi solo quelle di cattiva qualità, e ha detto di nuovo sta peggiorando la situazione delle banche troppo grandi per fallire. Ricordo appunto l'intervento di ieri del governatore della Banca d'Italia e presidente del Financial Stability Board Mario Draghi in Gran Bretagna. Andiamo sui titoli, vabbè, anche se appunto il clima era questo. Tenaris, il migliore tra quelle maggiore capitalizzazione, più 1,8. Per quanto riguarda Tenaris, certamente positivo un recupero del petrolio dopo il calo delle scorte americane comunicate nel pomeriggio, ma certamente il titolo è stato favorito anche dalle indicazioni di Goldman Sachs, che si mostra positiva sul portafoglio ordini del prossimo anno. È andata quindi in controtendenza rispetto all'altra società del settore servizi per l'estrazione petrolifera Saipem, che ha accusato invece una battuta d'arresto piuttosto significativa, meno 3%, nonostante l'annuncio di nuovi contratti offshore nel sud-est asiatico per Saipem, ma si tratta certamente di una correzione dopo che negli ultimi giorni il titolo aveva corso molto. Ancora UbiBanca più 1%, Terna più 0,80, Snam più 0,6 e Geox più 0,1 come Finmeccanica. Questi i titoli positivi del listino principale. I negativi: Bulgari meno 3,7, appunto Saipem tu lo citavi, meno 3%, anche in pregiro perde il 3%, Mondadori il 2,5%, Fondiare meno 2,2 come Mediolanum, l'1,80 il calo della Popolare di Milano, l'1,7 quello di Prismian e di ST Microelectronics, l'1,6 quello di Unicredit, Parmalat meno 1,5, i talcementi pure, Monte dei Paschi meno 1,3 come Ansaldo e Buzzi, Unicem, Pirelli perde l'1,2%. Allora, non c'è molto altro da aggiungere. I bancari, Andrea, hanno risentito delle parole di Mario Draghi sul fronte dell'esposizione bancaria, no? Sì, certamente questa preoccupazione, unita anche alle possibili effetti su cui ha messo in guardia appunto il governatore del rialzo dei tassi di interesse, hanno finito per pesare un po', ma comunque diciamo che in generale un po' in tutta Europa il settore bancario ha risentito oggi di queste incertezze, soprattutto quelle che ricordavamo sull'esposizione dei vari paesi, ed è stato tra i peggiori settori insieme a quello assicurativo. Per quanto riguarda il listino italiano, si è distinta UbiBanca, oggi premiata dalle raccomandazioni di Società Generale, che ha segnalato di aumentare l'esposizione sul titolo. Infatti è stato l'unico titolo a distinguersi rispetto agli altri, anche se va detto che ad esempio Intesa San Paolo ha poi accusato una perdita solo del meno 0,6%, quindi ha fatto comunque meglio del listino, un po' peggio gli altri altri del settore bancario. In generale si sono difesi invece i difensivi, scusate il gioco di parole, però Terna... E hanno attaccato gli attaccanti. Esatto. Vabbè, ma invece per quello che riguarda i migliori e i peggiori in assoluto, dicevamo che ancora si sente sui titoli legati al settore dell'acqua l'effetto del decreto Ronchi sulla privatizzazione parziale per ora degli acquedotti. Acque potabili più 5%, Mediterranee Acque più 4,5%. Poi c'è una notizia, bene anche De Longhi più 3,1%, e poi c'è una notizia invece che non piacerà ai tifosi juventini. La Juve ha perso infatti 6,1% in borsa, possibile solo per un risultato deludente per chi tifa Juve. Per altri magari meno, come quello di ieri? Beh, certamente qui non si tratta solo di una questione di risultato sportivo. Sappiamo che la Champions League dà introiti pubblicitari e appunto dai biglietti allo stadio piuttosto significativi, che impattano significativamente poi sui risultati finali dell'esercizio delle squadre di calcio. Più volte si è parlato della volatilità delle entrate per queste squadre, quindi è anche naturale che effetto emotivo, ma effetto anche delle mancati introiti, è piuttosto naturale che dopo un risultato del genere il titolo accusi una battuta d'arresto così significativa, meno 6,1%. Sì, è arrivato a perdere anche il 7%. Peggior titolo Finarte, Casa d'Aste, meno 8,30%, poi la CIA, compagnia immobiliare, meno 7,8%, Fortis, meno 7,2%. Grazie, Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso della legge finanziaria che è approdata alla Camera, verrà, non ho visto altre agenzie per cui per ora non c'è conferma, ma dopo ci sono altre possibilità che venga posta la fiducia nonostante le richieste arrivate dalle opposizioni su questa legge finanziaria, e quasi inesistenti, come dicevamo, le possibilità di ritocchi alla legge. Una manovra che vale quasi 9 miliardi di euro, era partita da 3,5 miliardi, poi i vari emendamenti governativi l'hanno portata a quasi il triplo, cioè 9 miliardi di euro. Le coperture, 3,7 miliardi arriveranno dallo scudo fiscale, 3,1 miliardi dal trasferimento dell'INPS al tesoro di fondi TFR, il resto da rimodulazione di spesa. Allora, sul trasferimento dei fondi INPS, cioè i nostri TFR dall'INPS al tesoro, qui insomma la situazione è un po' complicata, nel senso che abbiamo visto oggi una dichiarazione del ministro Sacconi a Welfare che ha detto: attenzione, non c'è nessun, non cambia nulla per quello che riguarda il trattamento di fine rapporto e la disponibilità del trattamento di fine rapporto, e quindi ha gettato acqua sul fuoco, visto che oggi la notizia era praticamente su tutti i giornali. In realtà maggiore preoccupazione la palesano, dell'agenzia di qualche minuto fa, i commercialisti italiani, che per voce del loro presidente Claudio Sicigliotti, il nostro ospite già altre volte, dicono: attenzione, se si utilizzano le eccedenze di TFR disponibili presso l'INPS per finalità di copertura della manovra finanziaria, si sta creando un nuovo potenziale debito dello Stato. È più un'operazione più simile a una non copertura che a una copertura. Tra l'altro, quindi molte perplessità anche dai commercialisti. Dicevo che invece per quello che riguarda le dichiarazioni del ministro Sacconi, attenzione, non è cambiato nulla su questo. Comunque, parliamo di finanziaria e chiaramente lo facciamo anche collegandoci con la Camera. Nessuna novità sostanziale e nessun problema per i lavoratori, così il ministro Sacconi, ho trovato adesso la citazione corretta. Vincenzo Miglietta è in collegamento con noi dalla Camera. Buonasera Vincenzo. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, abbiamo già fatto ascoltare la dichiarazione del ministro Tremonti in apertura, che ha detto, sentite, adesso non ha detto così, questo lo dico io, ha detto c'è stata una discussione intensa e prolungata durante l'esame della finanziaria in commissione, e non c'è stato ostruzionismo, quindi non siamo qui per parlare dei metodi e dei meriti, siamo qui per approvare la legge finanziaria. Detto ciò, come sta procedendo la discussione con i vari interventi, maggioranza e quindi opposizione. Il problema in questo momento è tutto politico. Tremonti dice non è il caso di parlare del metodo, invece in questo caso l'opposizione punta proprio sul metodo, punta a non far mettere al governo la fiducia, in cambio propone un taglio netto agli emendamenti. Ricordo che tra poco meno di un quarto d'ora scadrà proprio il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti, i tempi comunque stringono, non sono poi così abbondanti. Secondo calendario la Camera dovrà approvare il testo entro il 17 dicembre, la finanziaria tornerà quindi a Palazzo Madama per il passaggio definitivo previsto prima di Natale. In apertura di discussione questo pomeriggio le opposizioni hanno difeso comunque il loro comportamento in commissione bilancio, hanno respinto al mittente le accuse di ostruzionismo. È stato a questo punto lo stesso presidente della commissione bilancio Giancarlo Giorgetti della Lega a dare atto al centrosinistra di aver avuto un comportamento leale nei lavori della commissione. Possiamo ascoltare proprio questo passaggio. Non c'è stato atteggiamento ostruzionistico da parte dell'opposizione, probabilmente coloro che erano impegnati nei lavori di commissione non avevano neanche il tempo di ascoltare i media, quindi non potevano dare valutazioni di questo tipo. Al contempo devo dire che c'è stato lo spazio per votare le proposte dell'opposizione, perché come è noto i lavori della commissione si sono prolungati oltre quelli originariamente previsti. Naturalmente diverso è il votare gli emendamenti dell'opposizione e diverso è il caso di pretendere che gli emendamenti dell'opposizione vengano valutati positivamente e approvati. E quindi rientra nella valutazione politica da parte della maggioranza del governo un atteggiamento che non è stato in questo senso collaborativo, però è un atteggiamento assolutamente legittimo. Naturalmente nella sede dell'Assemblea credo che non possa sostanzialmente cambiare, perché non avrebbe in questo senso un senso proprio. In ogni caso, ovviamente è prerogativa del governo la decisione di porre la questione di fiducia, però io tenevo a ribadire che nell'ambito della Commissione ci sono stati gli spazi per la discussione, per la votazione e non ci sono stati atteggiamenti ostruzionistici da parte di nessuno. Ecco, l'abbiamo ascoltato, lo diceva il Presidente della Commissione Bilancio Giorgetti, deciderà il Governo se porre o meno la fiducia, l'opposizione ha chiesto che quest'atto venga evitato, in cambio propone un taglio degli emendamenti e quindi dei lavori parlamentari più tranquilli. La richiesta è venuta sia dal Partito Democratico, poi lo ascolteremo anche dall'UDC, in questo caso per il Partito Democratico ha parlato Michele Ventura, sentiamo Ventura. Anche noi siamo disponibili a un drastico ridimensionamento degli emendamenti, dando anche la garanzia per quello che ci riguarda che questo confronto potrà svilupparsi nell'ambito delle giornate previste di lettura della finanziaria, perché noi privilegiamo un punto, siccome si è consumata una frattura, diciamo così, un qualcosa che ha creato una situazione, un clima di difficoltà fra noi e nella Commissione e più in generale sul funzionamento corretto della Commissione Bilancio. Noi in questo modo assicureremo due cose. Primo, discutere di fronte al Paese le questioni fondamentali alle quali noi attribuiamo importanza, che sono legate alla manovra economica, e in secondo luogo il recupero della dignità piena di un confronto dialettico e democratico che è alla base del prestigio delle istituzioni. Queste le parole di Ventura, Partito Democratico. Dall'UDC Casini propone un vero e proprio patto a tre monti contro la fiducia, sentiamo Casini. Siamo disponibili a ridurre al minimo i nostri emendamenti. Non chiediamo al governo di pagare il prezzo dell'approvazione di questi emendamenti, perché sarebbe una sorta di ricatto, però possiamo chiedere al governo, a fronte di un'opposizione che riduce drasticamente i suoi emendamenti, un impegno onesto e sincero, che è quello che questi emendamenti vengano posti in discussione, in votazione, senza la posizione del voto di fiducia, perché sennò davvero qui si assiste a un maxi esproprio del Parlamento. Oggi chiediamo al governo di sottoscrivere con noi un patto a difesa della centralità del Parlamento. Il patto è semplice, noi riduciamo drasticamente gli emendamenti, il governo accetta la discussione e la votazione di questi emendamenti senza la posizione del voto di fiducia. È una difesa anche della maggioranza parlamentare stessa. Beh, Vincenzo Minetta, anche alla luce delle parole che abbiamo appena sentito da Casini, insomma, la richiesta dell'opposizione è chiara: riduciamo gli emendamenti, però non mettete la fiducia sulla finanziaria, fatecela discutere in Parlamento. Come tu già ricordavi, il tema da questo punto di vista è squisitamente politico, la legge finanziaria nella sua architettura economica già l'abbiamo ricordata. Grazie Vincenzo Minetta, in collegamento con noi da Montecitorio. Adesso il GR, poi torniamo in diretta per parlare dei timori grossi sui mercati, Dubai, Grecia, oggi si è aggiunta anche la Spagna, le dichiarazioni di ieri del governatore Mario Draghi, 4.000 miliardi di obbligazioni di bassa qualità che vanno in scadenza nei prossimi 5 anni, insomma, un bel tema leggero e leggero. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, come annunciato, dopo aver aperto il programma con due buone notizie, la tutela della pizza italiana e le vendite di Prosecco, lo dico in maniera molto seria, ricordo ancora che parliamo di 6 miliardi in tutto di giro d'affari solo nel nostro paese, adesso ci occupiamo, ahimè, di temi un po' più pesanti, intesi come un po' più preoccupanti. 349-238-6666 per i vostri sms, chi ce lo chiede, do l'aggiornamento di borsa. Wall Street in questo momento è invariata, più 0,1, le borse europee hanno chiuso tutte con un calo dello 0,7%, tranne, tutte vuol dire Parigi, Francoforte e Milano, tranne Londra, meno 0,4%, dicevo. Il tema di cui ci occupiamo adesso riguarda, insomma, lo stato dell'arte, o meglio il punto del guado in questa crisi finanziaria dopo le dichiarazioni di ieri del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi e le nuove preoccupazioni che oggi invece sono puntate sul debito e sulla tenuta dei conti spagnoli. Allora andiamo con ordine, perché oggi cosa è successo? L'agenzia di rating americana Standard & Poor's, una delle principali al mondo, quelle che hanno i voti e i debiti dei paesi oltre che delle società, ha confermato il voto al debito spagnolo AAA, però ha detto che ha rivisto le prospettive, l'outlook, da stabili a negative alla luce del pronunciato deterioramento delle finanze pubbliche spagnole. Questo ha immediatamente ha fatto schizzare i credit default swaps, che sono praticamente delle assicurazioni, degli strumenti che assicurano contro il rischio di insolvenza di un emittente, che può essere uno Stato oppure un privato. Ebbene, hanno segnato un rialzo di 5 punti a 94 punti, sono ai massimi. Il costo per assicurarsi dal rischio di insolvenza del debito spagnolo è ai massimi da giugno. Poco fa Madrid è intervenuta, ha detto di non essere d'accordo con le decisioni di Standard & Poor's e comunque che la decisione dell'agenzia di rating non avrà conseguenze sulla politica fiscale del paese. E qualche minuto fa è intervenuta anche la Banca Centrale Europea, ha chiesto alla Grecia in questo caso di intensificare e accelerare le riforme, altrimenti la Banca Centrale Europea non accetterà obbligazioni di carattere greco, per cui gli accordi temporanei dovranno andare a scadenza. Le banche, in prevalenza greca, che oggi forniscono alla Banca Centrale Europea i titoli di Stato greci come garanzie per prendere in prestito liquidità, quello che fanno anche altre banche, danno i titoli di Stato come garanzia, beh, non potranno più farlo se la Grecia non mette in piano mette in piedi un piano ancora più accelerato di riforme. La Grecia resta un caso, sebbene il ministro delle finanze greco George Papakonstantinou abbia dichiarato questa mattina che non c'è assolutamente nessun rischio di default, quindi di fallimento, diciamo, di insolvenza nel debito pubblico greco, e che non, la Grecia non chiederà alcun pacchetto di aiuti all'Unione Europea. Beh, nonostante questo, il primo ministro greco si è detto molto molto preoccupato della situazione greca, l'ha definita la situazione peggiore da quando la Grecia è tornata alla democrazia. Papandreou infatti ha detto il paese si trova in una situazione di terapia intensiva nel reparto di cure intensive e la crisi finanziaria minaccia la sovranità greca per la prima volta dal 1974, quando il paese appunto tornò alla democrazia dopo la dittatura dei colonnelli. Questo per quello che riguarda la cronaca, ma vale la pena ricordare anche che cosa ha detto ieri il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, anche nella veste di presidente del Financial Stability Board. Molto preoccupato Draghi dal debito pubblico e privato a livello mondiale, ha ricordato come nei prossimi 5 anni vi sarà un enorme volume di debito, quindi di obbligazioni pubbliche e private che andranno in scadenza, quindi andranno ripagate. Questa è un'obbligazione, infatti, l'obbligo a ripagare chi ti ha prestato dei soldi con degli interessi. E Draghi ha sottolineato che nei prossimi 5 anni vi saranno, solo per quello che riguarda le obbligazioni di bassa qualità, 4.000 miliardi di obbligazioni in scadenza. E poi ha detto, attenzione, peggiora il problema delle banche troppo grandi per fallire, che non vuol dire che le banche non debbano essere grandi, ma è un'espressione che si usa in americano, lo dico a chi scrive, per dire che ci sono alcune banche che sono talmente importanti che vengono chiamate too big to fail, troppo grandi per essere lasciate, diciamo, andare alla deriva. Minuti, ultima parte di Focus Economia, con voi Sebastiano Barisoni. Allora, parliamo dei problemi greci, di quelli di Dubai e, visto oggi, anche se di livello molto diverso, di quelli spagnoli. Unitamente all'allarme, alla messa in guardia fatta ieri dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, lo facciamo con l'economista Mario De Aglio, che insegna economia internazionale all'Università di Torino. Buonasera professore. Buonasera a lei. Allora, al di là appunto delle rassicurazioni greche, ha lasciato tutti un po' basiti l'intervento di ieri del governatore della Banca d'Italia e anche presidente del Financial Stability Board, per cui il massimo organismo delle banche mondiali. Dobbiamo preoccuparci più del debito pubblico e privato e quindi anche di questa immensa quantità di titoli, 4.000 miliardi di obbligazioni a bassa qualità, oppure della frase sta peggiorando il problema delle banche troppo grandi per fallire? Ma io dividerei le mie preoccupazioni più o meno equamente, piuttosto mi domanderei come mai si parla tanto di questa cosa, visto che questa massa non si è creata ieri mattina, lo sapevamo sempre che c'era questa massa enorme di titoli. E il problema è come un paese che vive sotto una frana, no? Un paese di montagna, c'è la ruppe sopra che è a rischio frana, però normalmente si dimentica, poi viene giù un sassolino. Venendo giù questo sassolino tutti si preoccupano e si ricordano che la frana può cadere. Il sassolino è il Dubai. Poi si vede una crepettina che è la Grecia, allora dice ma qui verrà giù tutto. Però sostanzialmente la massa di materiale franoso c'era già prima e continuerà a esserci. Ecco, lei già nel citare il caso Grecia e il caso Dubai sta dicendo che sono, se ho ben capito il suo esempio, degli smottamenti che potrebbero preludere una frana, oppure sono dei segnali che comunque consigliano di mettere in sicurezza, diciamo, gli abitanti che abitano sotto questa montagna? Ma è che la realtà è che in sicurezza non riusciamo a metterci, perché siamo come un paesino di persone che le case le ha lì sotto, quindi possiamo salvarci noi personalmente, ma le case vengono distrutte. Il problema è di capire qual è la probabilità di questa frana. Io direi che è una probabilità al momento molto bassa, ma bene, sicuramente già molto più alta di 2 settimane fa. Ecco, come mai, lo vediamo anche dei messaggi che arrivano al 349-238-6666, come mai nel momento in cui i mercati finanziari hanno recuperato tantissimo, sono i massimi comunque, ma recuperato sia da marzo sia sono in positivo rispetto all'inizio anno, la situazione dell'economia iniziano ad arrivare i primi segni più, abbiamo visto l'Italia, Francia, la Germania, e anche dei miglioramenti su come si chiuderà il 2009 e su come dovrebbe andare il 2010, dico come mai proprio in questo momento tornano le crepe, tornano gli allarmi, i sassolini? Ma è perché in realtà tutta questa ripresa, ritorni eccetera sono stati amplificati dai mezzi di informazione, ma nella realtà sono piuttosto stentati. L'economia reale fa delle ripresine che se continuano così implicano che ci vogliono alcuni anni per tornare ai livelli pre-crisi. Per quanto riguarda le banche, sono state riempite di risorse finanziarie dei settori pubblici dei vari paesi, hanno usato queste risorse finanziarie sostanzialmente per comprare nuovi titoli e hanno fatto salire le borse. Però è tutto un po' fatto in laboratorio, diciamo, non c'è una ripresa vera così sicura, così chiara e soprattutto così rapida da farci stare tranquilli. In fondo anche negli anni 30 ci furono delle riprese, ma erano riprese stentate come questa. Per cui la teoria economica classica dell'elastico, per cui a un certo momento tirandolo, poi quando, e mi riferisco in questo caso all'uscita da, ai meccanismi di uscita da questa crisi, quella che ormai si chiama exit strategy, no? Che quando tornare a alzare i tassi di interesse, quando tornare a rimettere sotto controllo i conti pubblici, riprendere i soldi che sono prestati al sistema. Dicevo, la teoria classica per cui dopo aver teso l'elastico, quando lo molli riparte l'economia, non si applica a questo caso? Ma non si applica tanto, perché quella si applicava alle normali crisi che abbiamo vissuto dal dopoguerra in poi, cioè c'era troppa domanda, arrivava la banca centrale a tirare su i tassi, poi i governi a tirare su le tasse, tutto per ridurre la domanda, questa domanda si riduceva per sei mesi, quindi l'inflazione scompariva, a questo punto si lasciava andare. C'era tutta una domanda arretrata che di colpo si scaricava sul mercato, quindi quando la ripresa partiva si sapeva che comunque era un processo sicuro, relativamente rapido, tornava su in fretta. Questa volta la crisi nasce invece non perché c'è troppa domanda, ma perché c'era troppa offerta e quindi è una cosa diversa e se le famiglie non hanno i soldi per l'elastico, cioè per poter una volta rilasciate tornare con entusiasmo a comprare i beni di prima, e quindi siamo tutti un po' in difficoltà a vedere che sì, il paziente respira, nel senso che la produzione smette di cadere, c'è qualche segno di ripresa, ma sappiamo anche che con riprese di questo genere non si va molto lontano, o meglio si va molto lontano per raggiungere i punti di prima. Ecco, in questo a me lascia sempre molto perplesso, comunque sorpreso, vedere alcune dichiarazioni che poi passano anche in maniera abbastanza così inosservata. La Bundesbank, la banca centrale tedesca, la scorsa settimana ha detto: secondo noi le banche tedesche dovranno fare ulteriori accantonamenti, cioè mettere soldi in cascina perché ci saranno perdite per, sui crediti fino a 90 miliardi di euro, che è una cifra obiettivamente pesante. Tre settimane fa il Fondo Monetario Internazionale ha detto: noi stimiamo che vi siano in giro ancora il 50% delle svalutazioni di asset, di prodotti tossici, di investimenti tossici, ancora non dichiarate nei bilanci delle banche mondiali. Nelle pieghe dei bilanci non c'è traccia, soprattutto nella parte europea più che in quella americana. Ecco, com'è possibile? Poi giustamente il governatore invita tutti a stare attenti, a fare presto nel rimettere in ordine i conti, ma com'è possibile che ci sia ancora così tanta roba in giro quando i titoli bancari bene si sono ripresi in borsa, e non parlo solo in Italia? Ma guardi, l'ammontare dei titoli a rischio, non dico quelli tossici, ma quelli che possono essere infettati, viene variamente stimato a partire da 10 volte il PIL del mondo, cioè la montagna di carta che si è creata. 10 volte il PIL del mondo? 10 volte il PIL del mondo è la stima minima, poi c'è chi dice che si arriva a 20 o 30 volte. La montagna di carta che si è creata, sfuggendo a ogni controllo, sfuggendo a ogni visione, insomma, è assolutamente inimmaginabile in questo senso. E quindi non appena si butta uno sguardo più approfondito ci si spaventa. E quindi è giusto chiedere alle banche di ricapitalizzarsi, però non si può chiedere alle banche allo stesso tempo di ricapitalizzarsi e poi di prestare nuovi soldi. E quindi la situazione è molto complicata e io non vedo via di uscita molto facile. Beh, ma tra le due, cioè tra chiedere alle banche di accantonare soldi in previsione di future perdite su investimenti in questo momento ancora non contabilizzati come perdite, oppure chiedere alle banche di prestare soldi all'economia per farla ripartire, quale delle due sarebbe da preferire? Ma credo in senso generale sarebbe da preferire la seconda, però avendo ben chiaro che il risultato di questa seconda è una probabile, anzi quasi certa, inflazione. Però tra una inflazione prolungata, ma che poi si può al momento buono spegnere, e una disoccupazione prolungata a due cifre, magari due cifre piuttosto alte, io credo che qualunque governo sceglierà la prima. E quindi cioè di far circolare i soldi a costo di beccare un po' di inflazione. Far circolare i soldi e tenere sulla macchina piuttosto che salvare i prezzi, i capitali, i risparmi e quelle altre cose lì. Speriamo che non si arrivi a questi livelli, speriamo che in qualche modo le cose si aggiustino, però anche gli episodi recenti mostrano che insomma il mondo non è ben monitorato, nessuno ha chiaro quello che succede, continuiamo a vedere come nel 2007, come nel 2008, anche adesso che improvvisamente si scoprono delle montagne di debiti in un territorio inesplorato, no? Questo pianeta 10 volte più grande della Terra come massa di debiti rispetto a quella che è la produzione del pianeta. Allora, per chiudere diciamo con un minimo di ottimismo, professor De Aglio, non che sia obbligatorio l'ottimismo, meglio il realismo, però può essere che un miglioramento arrivi, come abbiamo visto, in maniera ancora timida e cauta, per esempio sulle stime sulla crescita economica europea, italiana e anche internazionale dai paesi asiatici, cioè che magari un aiuto arrivi, in questo momento non previsto, da una crescita economica dei BRIC, cioè Brasile, India e Cina soprattutto. Sicuramente servirà, attenuerà questa crisi e naturalmente avrà un prezzo politico, in quanto bisognerà dare agli asiatici più spazio nelle decisioni, un potere di supervisione, forse anche far entrare la moneta cinese e forse qualche altra in un paniere di monete in cui comprare e vendere almeno le materie prime. Però le stime che si sono fatte è che questo sostegno è comunque piccolo sul totale, quindi va bene che ci sia, andrebbe probabilmente bene che paesi come l'Italia riuscissero ad essere dei consumatori risparmiatori meno timorosi, che quindi se ci sono delle spese programmate da tempo le facciano invece di rimandarle. Non dico che si mettano a spendere come pazzi, ma se hanno pensato di fare una spesa non devono aver paura della crisi e non farla per questo motivo, perché anzi così facendo se spendono tengono un po' lontana la crisi, e speriamo con una serie di piccole misure, con una gestione anche a livello europeo che sia più coordinata rispetto al passato, di uscirne fuori con pochi danni. Grazie per la sincerità, anche se delle volte, come cantavano, la verità fa male. Grazie a Mario De Aglio, economista e editorialista della Stampa. Grazie a lei, arrivederci. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni le auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.